Questo film racconta una storia in cui viene fuori che lo sport è un grande mezzo per far star meglio i cittadini, per offrirgli delle opportunità, per costruire anche percorsi di emancipazione e di affrancamento. È una carta importantissima, in Italia purtroppo questa carta è giocata molto poco. Cioè, si parla tanto dello sport nei suoi aspetti, diciamo, più clamorosi, più, diciamo, di richiamo. Si parla molto del rigore che Alfredo non ha dato, ma del bene che lo sport può fare a tanta gente, per farla solo star meglio, per farla star bene insieme agli altri, per offrire dei percorsi davvero di emancipazione, non se ne parla quasi niente. Allora noi abbiamo scelto come lavoro della nostra fondazione di lavorare perché chi di sport non si occupa utilizzi lo sport come veicolo di comunicazione, dia un messaggio in positivo di quello che può fare lo sport. Quindi il lavoro che è stato fatto in questo film, che non era scelto da noi, ci mancherebbe ancora, anzi, ma noi siamo ben contenti di aiutare questo tipo di iniziative, fare in modo che queste iniziative abbiano un significato, senza ne parli, perché più chi, soprattutto chi non fa sport, si renda conto di quanto lo sport può far bene, non soltanto all'aspetto fisico delle persone, che già male non farebbe, ma anche proprio alla costruzione di una comunità consapevole ed emancipata. Questo ci sembra un messaggio piuttosto forte, questo è un contributo, speriamo che questa scelta di utilizzare questi temi non rimanga isolata. Noi cercheremo nel nostro piccolo di fare in modo che questa sensibilità possa crescere, perché si dia davvero dello sport questa grande opportunità che può avere e lo si usi davvero come metro per migliorare la nostra vita.